dir mai, non dirmi mai che siamo l'ombra, che abbiamo perso il nostro tempo, bruciato ogni speranza. Ad ogni peggio c'è sempre un peggio, dopo uno scoglio, un altro scoglio, ma non per questo siamo perduti, non per questo siamo dannati. Non dir mai, non dirmi mai che siamo nebbia, abbandonati come cavalli nella prateria del nulla. Abbiamo molto, molto da darci, insieme come due cani sciolti. Davanti a te un uomo in malora, che crede ancora, che crede ancora. Vedrai, vedrai, vedrai, che i nostri fiori fioriranno. Vedrai che io ti ho amato, ogni notte, ogni giorno. Anche quando l'inferno brucia, brucia l'inverno. Anche quando l'inverno soffia un vento eterno. Vedrai, vedrai, vedrai che i nostri cuori scoppieranno, che dopo la tempesta arriva il nostro immenso. Nessuno potrà dividere la terra dal cielo per questo nostro amore. Nostro è il cammino. Non dir mai, non dirmi mai che siamo pioggia, un uragano che spezza il grano, una sconfitta, un arenile per le barche al tramonto, brace per cenere di un fuoco spento, acqua d'un fiume che non trova sbocco, fiamme di un fumo, un ramo secco. Vedrai, vedrai, vedrai che i nostri fiori fioriranno. Vedrai che io ti ho amato ogni notte, ogni giorno. Anche quando l'inferno brucia, brucia l'inverno. Anche quando l'inverno soffia un vento eterno. Vedrai, vedrai, vedrai che i nostri cuori scoppieranno, che dopo la tempesta arriva, arriva il nostro immenso. Nessuno potrà dividere la terra dal cielo per questo nostro amore. Nostro è il cammino. Non dir mai, non dirmi mai che siamo persi in questa bolgia. È già difficile trovarsi, meglio una spina in fondo al cuore che mille rose senza colore. Come una nave senza timone ti seguirò ovunque, amore. Vedrai, vedrai, vedrai che i nostri fiori fioriranno. Vedrai che io ti ho amato ogni notte ed ogni giorno. Anche quando l'inferno brucia, brucia l'inverno. Anche quando l'inverno soffia, soffia un vento eterno. Vedrai, vedrai, vedrai che i nostri cuori scoppieranno, che dopo la tempesta arriva, arriva il nostro immenso. Nessuno potrà dividere la terra dal cielo per questo nostro amore.